Dei Conk per questo ultimo appuntamento del venerdì. Come vi ho detto, le sorprese non finiscono mai. È vigilia di weekend, abbiamo una rassegna a Bologna che è il Biograph Film Festival, e quindi perché questa colonna sonora? Perché con noi in diretta telefonica abbiamo la conduttrice di Please Kill Me, Laura De Lauris. Buongiorno Laura, ci sei? Certo che ci sono, buongiorno a tutti. bene. Allora, per quanto riguarda questo spazio di approfondimento che vogliamo dedicare al Biograph Film Festival, in incontri insomma che si sono tenuti, giustamente hai voluto portare un contributo di osservazione. Che puoi raccontare a tale proposito, Laura? Come tutti gli anni, il Biograph Film è sempre molto interessante, e adesso è già una settimana che è iniziato, quindi diciamo che ho avuto modo di vedere un bel po' di film e anche di fare diversi incontri con i registi, che sono appunto approfondimenti sempre molto interessanti. E come al solito si tratta di sguardi sul mondo che comunque vanno da anche fiction, sono anche film normali o documentari, e a volte sono anche documentari che sono sorprendenti perché ci aprono una visione su paesi dimenticati, questioni molto importanti, però che allo stesso tempo non se ne parla, non sono di attualità magari, quindi non ci si pensa, invece scoprono sempre delle realtà molto molto interessanti. Ecco, io adesso avendo poco tempo non posso certo fare delle recensioni di film. Sottolineo adesso, perché ieri sera hanno dato un film secondo me molto importante, che è documentario su Riace, un paese di resistenza. Questo è un tema di grande attualità, visto che Mimmo Lucano è stato anche eletto, ed è interessante perché questo documentario è stato iniziato quando ideato quando Mimmo Lucano è stato condannato, e quindi le registe, che sono due donne francesi, si sono prese insomma a cuore questa questione, facendo una scommessa, perché non potevano certo immaginare che poi sarebbe andata così, ma hanno voluto fare questo documentario. E ce ne sarebbero tanti altri, adesso non è che ho tempo, però parlando dei film che ancora devono essere proiettati, visto che... Certo, anzi è meglio darne una visione futura. Cosa... Esatto, perché ancora c'è la... Però ripeto che poi sono anche film che si possono anche poi... Questo qui lo rivedremo perché è distribuito da OpenDDB, quindi penso che girerà. E poi ci sono tra sé differenti appuntamenti anche insomma che a me interessano particolarmente, che sono quelli nell'ambito musicale, e stasera c'è Una vita all'assalto, che è il film su Militanta, il cantante degli Assalti Frontali, quindi abbiamo anche dei film tipo musicali. Poi voglio citare anche quello di domenica, ci sarà questo film Il frastuono e il silenzio, che è un film su Toni Negri, e adesso lo vedrò, dovrebbe essere molto interessante, perché è una riflessione che lui fa a 87 anni a Parigi, già malato, e riflette su tutte le argomentazioni politiche, ma anche un quadro tutto del periodo del terrorismo. Io credo che sarà molto interessante. Poi un'altra cosa molto interessante è che al termine delle proiezioni c'è sempre la possibilità di interloquire con i registi, quindi Certo. Ci sono gli approfondimenti e dopo questo film su Toni Negri c'era in sala tra l'altro un professore dell'Università di Bologna di filosofia politica, Sandro Mezzadra. Quindi dopodiché c'è anche la cerimonia di premiazione, ci sarà l'ultima, perché si parla sempre di anteprima in questi casi, l'anteprima di Turn and the Wand, che è l'ultimo film di Abel Ferrara. Beh, un grande nome, sì, certo. Quindi tante cose, tanta roba. Sì. Ah, tra l'altro volevo sottolineare, giustamente hai detto, questa è una sintesi, ma tu stai curando un blog dove si può avere informazioni. Sì, io curo un blog che è pleasekillmenoblogs.org e dove metto la recensione, perché poi spesso incontro i registi. E da questi incontri insomma si scaturiscono tante cose, certo, che sì, altrimenti ulteriori. Si perderebbero. Motivi ulteriori. È un po' la nostalgia del cineforum, cioè in realtà. Beh, è molto interessante invece. Oltretutto ricordiamo che con Please Kill Me magari verranno riportati anche questi contenuti alla domenica nel tuo format, che esattamente va dalle alle... Va dalle 21 alle 23. Ottimo, con Please Kill Me, con Laura Dell'Auris. Adesso forse farò una puntata registrata perché c'è il film domenica. Esattamente, però perderlo. Avremo poi modo di sentire la recensione in frequenza sui 103.1 con Please Kill Me. Laura, io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Volevi aggiungere qualcosa? No, direi tutto, che... quasi. Tutto, dovrei aggiungere tante cose, quindi non potrei farlo in un secondo. Ci mancherebbe, però grazie. È stata una levataccia, no? 8:30, 8:40. No, mi alzo sempre, alle 8, anche prima adesso. Dai Laura, grazie per questo approfondimento sul biografilm e a presto. Buona giornata. Ciao, ciao, buona trasmissione, ciao. We'll be right back. Come diceva mio nonno, in bon tot. Sono bravi tutti, eh? Se fossero stati tutti così gli anni 80 mi sarebbero piaciuti di più anche a me. Allora, nell'ordine, la colonna sonora di questo ultimo spazio è stato con i Conk. Poi, beh, cavern dei Liquid Liquid, che è un grande classico. Ora questo, uno dei primi singoli dei grandissimi Certain Ratio. Il movimento newyorkese della No Wave, un'espressione che fu definita anche in maniera così un po' frettolosa il punk funk. Arrivano messaggi anche di approvazione alla playlist, eh? Grazie di cuore, sempre belli, veraci, Byron, Devo e anche le sviolinate mi sembrano efficaci. Un grande abbraccio a tutti da David Moore, che saluto e ringrazio. Sentiamo lunedì, ok? Ci sentiamo lunedì con il Breakfast Club, oggi vigilia di weekend che vi auguro meraviglioso, ovviamente, di metà giugno, periodo più bello dell'anno in assoluto, almeno per quanto mi riguarda, e con il Breakfast Club, dopo lo stacco di fine settimana, lunedì puntualissimi con la prima colazione in diretta alle ore 7. Tra poche di Pen Enciclopedico Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Beh, non mi resta che augurarvi un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1, servo vostro, William Piana, e l'appuntamento a lunedì. Ciao a tutti, ciao a tutti.